Fresh Bit di Giulia Crivelli. Right Mind. Who in the right mind would want to visit Dubai? Si intitolava così l'articolo di Alex Proud del Telegraph sul più discusso degli Emirati Arabi Uniti. In italiano diremmo: ma c'è qualcuno nel pieno possesso delle sue capacità mentali che abbia voglia di visitare Dubai? Right, in questo caso, non può infatti essere tradotto letteralmente con giusto, quindi giustamente. Dobbiamo invece dire, appunto, essere in possesso delle proprie capacità mentali. Altri esempi di questa espressione sono: that was a stupid thing to do. You're not in your right mind. You can't be in your right mind. Hai fatto una cosa stupida, non sei in te, non puoi essere in te. Oppure: we don't believe any woman in her right mind would harm her child. Siamo convinti che non esista una donna che, nel pieno possesso delle sue capacità mentali, farebbe del male a suo figlio. Per tornare all'articolo del quotidiano britannico, il giornalista scrive: Dubai, on the other hand, markets itself as fun in the sun, a kind of Las Vegas on the Persian Gulf. Che significa: Dubai, d'altro canto, si presenta come un posto dove divertirsi e dove fa sempre caldo, una specie di Las Vegas del Golfo Persico. L'espressione on the other hand è legata al confronto fatto da Proud con l'Arabia Saudita in un altro paragrafo. Si dice infatti on the one hand da una parte, on the other hand dall'altra. Per esempio: on the one hand, being single gives you a lot of freedom. On the other hand, it may make you feel lonely. Da una parte, essere single consente una grande libertà, dall'altra ti dà una sensazione di solitudine, quindi espressione qui usata in senso figurato. Interessante anche l'espressione to market itself. Si può dire di luoghi, come in questo caso Dubai markets itself, ma persino di persone, e significa, come facile immaginare, fare marketing di se stessi. In un altro passo dell'articolo si legge: my problem with this is that Dubai wants to have it both ways. Either you are a playground for tourists or you are already a deeply conservative Islamic state. Il mio problema con Dubai, conclude il giornalista, è che vuole essere due cose insieme, to have it both ways, e contrastanti. To have it both ways è infatti un'espressione simile al nostro tenere il piede in due scarpe. Secondo Proud, Dubai vorrebbe essere un parco giochi per turisti e allo stesso tempo uno stato conservatore islamico. No, conclude, non si può essere Ibiza e Arabia Saudita allo stesso tempo.